Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Sono le 22.31 di questo 9 luglio 2012, buonasera da Agostino Spolaore, buonasera dal mio non fedele compagno, ma insomma capita spesso. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Ciao, buonasera, questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente, come precedente sottoscritto preferita in questo preciso istante, tutto al più, ancora di più diciamo, è perché questa sera c'è una grande artista che ci viene a trovare da Honolulu, si chiama Chiana, la presentiamo tra qualche istante. Se qualcuno però volesse intervenire, vi ricordo i nostri numeri telefonici, quello in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms il 346 23 20 033. E che dire, il nostro sito www.bluradioveneto.it e poi ancora le nostre pagine su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, e l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave. Dicevo, una grande serata, una grande artista che fa tantissimi chilometri dall'altra parte del mondo, ed è qui questa sera. Siamo veramente fieri, onorati di avere Chiana che ci viene a trovare da Honolulu. Stefano, prego a te. Sì, stavo pensando che Chiana ha già un record, dell'artista che arriva da più lontano. Da più lontano. A meno che non arrivi qualcuno dalla Luna, credo che resterà imbattuta. Welcome in our studio, and I was saying that you are the farther away guest we ever had, and that we probably are having in the future, because it's very hard to be more far away than Honolulu from Padova. So we have to thank you very, very much for being here. It's my pleasure. Thank you for having me. Allora, lei ringrazia naturalmente, e appunto l'ho ringraziata di aver fatto questo viaggio. Naturalmente lei è qui per una tournée italiana di cui poi parleremo, vi annunceremo anche le date, che sono tante, un po' in giro per tutta l'Italia. È sicuramente un viaggio molto impegnativo, e Chiana con lei ha portato l'estate ce l'avevamo già, ha portato il sole, i fiori e i colori della sua terra adottiva peraltro. Appunto, adesso alla radio è difficile descrivere queste cose, però se avete in mente un'idea di come può essere una ragazza hawaiana, ecco, lei è Chiana. È proprio quello, sì, che uno si aspetta di trovare quando arriva a Honolulu. Una ragazza con un sorriso che ci riempie tutto lo studio, molto, molto solare, e con i fiori, ci ha portato i fiori. Sì, infatti è la prima volta che mi capita di avere la collana di fiori hawaiana al collo, e questo devo ringraziare appunto Chiana, perché per loro è un gesto d'onore, mi diceva. Insomma, stai benissimo. Grazie, appunto. Ti ringrazio, Stefano. Allora, naturalmente Chiana è qui perché è una musicista, è la sua musica quella che vi vogliamo presentare, e per farvi così un'introduzione alla sua voce e ai suoi suoni, ci ascoltiamo subito un brano che è quello che apre il suo ultimo album, che è il settimo, se non vado errato, della sua discografia. Si intitola Cycles, Cyclones and Chameleons, una specie di scioglilingua. Il brano è What We Love, ce l'ascoltiamo appunto dal suo disco, e poi Chiana ci suonerà e canterà dal vivo la sua musica. Buon ascolto. So lost inside the strings of your guitar. If I could be your every sweet melody, I'd whisper lovelies from afar. I love the way you emulate every sound that you borrow from the stars. If I could live within this only sin and share my Venus with your Mars. As above, so below, I made a heaven through my little window. Shine the moons of your eyes and tell me that we'll never compromise what we love. Look at my skin, I think the chills have moved, and you give me shivers when you smile. Look at my stare, it's like a tantric affair. I think I'd be here for a while. I love the way you make the light of day last beyond the nightly blue. Maybe one day we'll meet each other and stay in this embodiment of me and you. As above, so below, I made a wishing, pretending to make it all true. Find all my pieces to draw me to you and you. Stefano, ti rubo ancora qualche secondo, se me lo concedi, perché volevo ringraziare due persone. Una è qui presente ed è Fausto Rota, che è lui che ci dà questa grande possibilità di avere qui in studio Chiana. Fausto, grazie di cuore da parte di tutta Blu Radio Veneto, da parte mia e anche per la nostra grande amicizia. Ci sei col microfono, puoi parlare se vuoi, Fausto. No, prego, prego, piacere. Grazie ancora. E poi volevo ringraziare un ufficio stampa, cioè la Top One Communication e la persona di Stefania Schintu che ci sta ascoltando. Le porgiamo i nostri più sentiti auguri e buon proseguimento all'ascolto dei programmi di un artista che lei sta seguendo per tutta l'Italia. Bene, Chiana, presentiamola un attimo, è il prodotto di una fusione di culture, suo padre è giapponese, sua mamma americana e abita alle isole Hawaii che sono proprio a metà strada, questo è molto comodo per andare a trovare i parenti forse. You are half Japanese and half American and you live halfway two countries, is that a commodity you wanted to be closer to both sides of family or it happens just by chance? Questo come mai è finita alle Hawaii? Yes, well, I was born and raised in Japan, and my mother was raised in Hawaii, in Honolulu, so it was always like a second home to me, and we would always visit, my siblings and I would visit during the summer, and that's how I learned English, and I just always loved Hawaii so much, and in terms of a transitional place to go, I felt that it would be good for me and my music and just getting out in the world, because living in the mountains of Japan is very sheltering. Ok, yes. Lei è nata e vissuta in Giappone e sua madre stava appunto alle Hawaii, quindi lei e i suoi fratelli e sorelle sono costantemente stati in viaggio per appunto per riunirsi alle due parti della famiglia. Alla fine lei ha deciso di andare ad abitare alle Hawaii perché è un ambiente molto stimolante dal punto di vista artistico, mentre invece stare nelle montagne del Giappone era un po' un rifugio, ha detto, ovvero sia un posto dove ci si stava forse più sicuri, più tranquilli, però era credo fosse meno eccitante. You mean that in the Hawaii you had more way to get new experience and different yes. cultures for yeah. your music especially. Yes, definitely, yes. Sì, appunto in un posto come la Hawaii che è un porto di mare nel senso letterale del termine, c'era modo di avere più contatti con altre culture come lei voleva fare. Infatti sentirete che nella sua musica ci sono influenze estremamente varie. Una piccola curiosità, volevo chiedere se Chiana è il suo vero nome. Is it Chiana your real name? Yes, Chiana is my middle name. It's my Hawaiian name. I go by that because my Japanese name is quite hard to say for most people. So I decided to just go with my middle name. You can say your Japanese name. I can say name. Yes. Okay. It's Kaori. Kaori. Kaori. Yes. Kaori. It's not so hard. Ha detto che usa nome. Yes. If I spell it out to people, usually, you know, it takes a good couple minutes. So I decided, well, I'll just go with my middle name. This is in the USA. It happens. In America, yes, especially in. Okay. In the US. Then I will tell you a story about this. Ha detto che usa il nome Chiana, che è il suo nome hawaiano, mentre il suo nome di battesimo giapponese è Kaori. Però ha scoperto che negli Stati Uniti facevano molta fatica a capire questo nome e anche quando lei faceva lo spelling ha preferito un nome che era più facile per gli americani da capire. Lei non sa che in Italia il nome giapponese Kaori è diventato famosissimo perché c'era una Kaori in television. In Italy, the Japanese name Kaori is very well known. Because it's more well known, yeah. I think many so. Years ago, there was a TV advertisement with a Japanese girl called Kaori. Oh, okay. So for most Italian, half of the Japanese girls are they know named how to say it. Kaori. Yes. Yes, it is more a common name. Sì, per noi quasi tutte le giapponesi si chiamano Kaori. Bene, adesso io le chiederei di cominciare a suonarci qualcosa con la chitarra floreale che ha portato, con disegni in madreperla e adesivi coloratissimi e anche un fiore che non deve mai mancare. So, can you play something for us? Yes, I would okay. love to. What song is this? Let's see. Deve ancora decidere. I've never done this before on the radio, so this is, oh, this really? Is a new experience for me, yes. Okay, let's see. I hope I'm tuned okay. Yeah. Okay, I think I'll start with a song that I wrote. It's from my CD, A New Way. Okay, questa è una canzone che ha scritto per il suo album A New Way. A New Way, and it's a love song that I wrote about how people get addicted to love, but more in a positive way. Okay. So kind of like how people get addicted to coffee in the morning. Okay. Thing, dice it's to the love that they share between people. Ha detto che è una canzone sulla dipendenza d'amore, che è una dipendenza positiva, che avviene un po' come col caffè della mattina. Uno ha bisogno appunto di questa dipendenza dall'amore, che però appunto è benvenuta contrariamente ad altre dipendenze negative. What's the title of the song? This is called Hooked. Hooked. La canzone si intitola Hooked. Buon ascolto a tutti. Questa è Chiana dal vivo qui su Blu Radio Veneto. Like a chocolate cappuccino without the unnatural caffeine. You're certified organic, baby, uniquely premium hoping. I take a sip of your aroma as I swim deep inside your hair. Like a cat nudging its partner with its fuzzy stories to share. Please don't leave me this way. I get weak from all the things you say. Please don't close your cafe. I am hooked on every brew you make. Like a thirst that I can't quench, I can never get enough of you. Each new name and term we use, we endear our secret love tattoo. A natural sugar rush every time we touch. I just ache. Well, maybe I should decaffeinate my senses before it's too late. Please don't leave me this way. I get weak from all the things you say. Please don't close your cafe. I am hooked on Questa era Hooked dal vivo, qui nei nostri studi, il primo brano che ci presenta Chiana. Appunto. C'è un telefono che sì, dà fastidio. C'è qualche telefono che fa qualche ronzio con gli apparecchi, è una cosa normale. Non abbiamo detto prima che Chiana è ancora un po' sotto gli effetti del jet lag, quindi si sta concentrando per riuscire a cantare. È un po' uno sforzo che fa per noi, per cui la ringraziamo. I'm saying that we thank you very much that you play for us even under the jet lag effects that are very, very bad. Lei è mezza giapponese, volevo chiederle, naturalmente parla perfettamente anche il giapponese, volevo chiederle se ha mai pensato di cantare in giapponese e se la sua musica ha influenze da questa cultura. You are half Japanese, you, of course you speak perfect Japanese. I wouldn't say perfect, but yes, no? I try. For me it's perfect, for sure. But have you ever think about singing in Japanese? Yes, no, I do sing a few Japanese songs. I tried a project in Japan a couple years ago, and it was just really difficult for me to translate all of my English lyrics, which tend to be kind of a little more spiritual and harder to translate anyway. It was difficult for me to do that into Japanese because unless it starts in that language, it loses a lot, as you know, if you translate things artistically and poetically. Si è detto che ha provato un paio d'anni fa a fare un progetto in giapponese e ha trovato delle grosse difficoltà nella traduzione delle liriche, dei testi, perché si perdeva moltissimo della profondità, diciamo, di quello che stava cantando. Sono testi anche molto spirituali e da quel che ho capito non è stata soddisfatta. So you were not satisfied with the result? It was just really difficult. So what we tried to do was have me sing everything English and then just do some parts in Japanese, and that was okay. It was just it didn't pan out just because of the way that the songwriting would have been. I think I would have had to go mostly Japanese and then kind of relearn the language in a different way, which would have taken many years. Yeah. It's very complicated. It's very complicated with languages. Sì, è un po' difficile da tradurre questa cosa perché in pratica le due lingue sono talmente diverse, se ho ben capito, che qualsiasi tipo di traduzione che tentava andava a perdere completamente il significato. Quindi si è resa conto che avrebbe dovuto in realtà scrivere le canzoni direttamente in giapponese, però a quel punto la sua conoscenza della lingua non arrivava a quello che lei avrebbe voluto e si sarebbe dovuta mettere a ristudiare. Quindi, se ho ben capito, so this project did never happened. You work on it, but we worked on an idea and it just didn't but you made a record didn't or follow not? Through. No, we recorded a demo and we kind of presented it to different people and we tried to see if I could just do mostly English, but I think they wanted more Japanese. So again, it would have taken me many years to get to a comfortable level with my Japanese and the translations of everything. So you stop it. So, yeah. Si è detto che hanno fatto dei demo in cui alla fine c'era troppo inglese dentro, mentre i giapponesi lo volevano nella loro lingua, e lei a quel punto non si è sentita in grado di affrontare questo impegno, avrebbe dovuto ristudiare ancora molto il giapponese per arrivarci, quindi ha lasciato perdere. But I love singing in Japanese, I love singing in different languages. I actually have a CD I made with my mother that has 7 languages of us singing together. My mother was a singer in the 60s, so she was a huge influence on me growing up. And she, when she traveled the world, learned different songs from different countries. So she taught that to me, and then I put my voice on her. Ok, her voice. Sua madre era una cantante negli anni 60, e hanno fatto un disco insieme in cui cantano canzoni in 7 lingue diverse che hanno raccolto in varie parti del mondo, e quindi è una cosa che viene, diciamo, dalla famiglia. So you follow your mother's steps? Yes. You started playing guitar very young? In high school, yes. I was about 16. I picked up my mom's classical guitar and she taught me a few chords and then I kind of started making them up and writing my own songs. C'è stata sua madre a insegnarle a suonare la chitarra quando era alle scuole superiori e ci ha preso subito gusto e ha cominciato a scrivere le sue canzoni. Ma tornando al Giappone, volevo chiederle, siccome per noi la musica giapponese suona molto strana, per noi occidentali, volevo chiedere se ha preso qualche cosa a livello strumentale, di accordi. For us, as Europeans, the Japanese music sounds very strange, very uncommon. Yeah. I would like to know if you pick something from that music, I mean some chords or some arrangements that you probably heard when you were a baby, a kid, back there. Did you use any of that in your music or not? Well, when I was a child and I would listen to music, it was mostly, you know, lullabies and that kind of thing. So I never really put that into the guitar yet. I would like to one day make a CD for children, but let me think. Chord wise, you mean? Like the way that they. Yeah, that's a good one. Sta pensando a qualche accordo. I wish I could think of a song right now, but I. Sta cercando di pensare a una canzone. Ha detto che da bambina ascoltava molte ninne nanne e le piacerebbe in futuro fare un disco per bambini, però è un progetto che ancora insomma è molto così. Vabbè, lasciamo pensare su questa domanda che evidentemente era complicata. I let you think while we listen to another song. Sure, thank you. E intanto ci ascoltiamo un altro brano dall'album Vertigo, che poi è un extended play, però in realtà sono 8 brani, quindi alla durata di molti album normali. Questo è un po' meno recente rispetto al brano che abbiamo ascoltato prima, e il titolo del pezzo è Cosmic Queries. Hello, hello, good day, so charming to meet you. But before for the formalities that are so see-through, may I kindly ask you sign and what your story falls on? To get to bed, to take a walk, could maybe go wrong. Is your eyes in line with my moon? Or will the planet shift to trigger snooze? All the sides regressing, the flawless house charge. There's no point progressing if there's no need to start. Don't you wanna know, don't you wanna know? Don't you wanna know, don't you wanna know? Is your retrogress to pull away from what I value? I have standards that expect your heart to always be true. We must see the incongruities before we get far. I don't even know your name, but I see exactly who you are. Is your rising sun aligned with my moon? Or will the planet shift to trigger Suzu? All the sides regressing, my flawless house short. But there's no point progressing if there's no need to start. My thought is how short. There's no point progressing if there's no need to start. Don't you wanna know? Hello, hello, good day, so charming to meet you. But before for the formalities that also see through, may I kindly ask a sign and what your star it falls on? To get to bed, to take a walk, or maybe go home. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Siamo ancora qui, siamo in diretta, questa è Blu Radio Veneto con Agostino, ma soprattutto con Stefano, che sta cercando di regalarvi, di farvi conoscere un po' di più il mondo di Chiana e la sua musica e soprattutto la sua bellissima voce. Poi ha una simpatia unica, io ci ho vissuto un po' di ore oggi pomeriggio assieme, Stefano, ti posso garantire che Chiana è splendida, una splendida veramente persona. Sì, sì, beh, veramente piena di vita, nonostante il jet lag. Bravo. Che è incredibile. We are saying that you're very alive, even under jet lag. Oh. So it's really something special. Questa canzone Cosmic Queries dall'album Vertigo mostrava un suono molto diverso dal brano che abbiamo ascoltato prima dall'ultimo disco, un suono molto più americano secondo la mia impressione. I have the feeling that this last song from Vertigo was completely different musically speaking from the album, the last record. It's more international pop American style. And so probably there were different musicians in it. C'erano musicisti diversi. Different producers, different musicians on each project. Yes, they all have a very different vibe, different parts of my life, and Yes, and content wise as well. So it's kind of a whole tapestry of my life over the last 7 years. Ah, ok, si è detto proprio, sono due dischi fatti con dei team di persone diverse, con dei momenti diversi della sua vita, ed è come vedere scorrere davanti il tessuto, diciamo, della sua esistenza degli ultimi 7 anni e dei cambiamenti che ha avuto. Non so, io ho sentito i dischi, li ho sentiti appunto prima. Ho l'impressione che l'ultimo sia più personale anche. I have the feeling that this last record is more personal. The Vertigo sounds more like big sound production. It's actually, it's funny because that I chose that song from there just because it showed more of a range of a different kind of production, like you were saying, but some of the songs on there are also more intimate and more acoustic. So each one has a blend of both. So it's hard for me to say that one is more personal than another because each one is very precious to me. Each song is like my child, so I can't say that. Sì, lei non fa nessuna differenza perché dice che ogni canzone è come un bambino per lei e quindi non riesce a trovare grosse differenze. Entrambi i dischi hanno brani veloci e anche brani più intimisti e quindi lei non riesce a vedere grandi differenze. Ma a volte è proprio da una distanza che si colgono maggiormente le differenze. Sometimes it must be from a distance to see the differences. You're too much involved in this, probably. Maybe. Which is obvious, normal. Sì, dico, lei è chiaramente troppo coinvolta nella cosa, come è anche giusto che sia, perché, come ha detto prima, sono i suoi babies, i suoi bambini. Yes. Allora, lei, mentre andava alla canzone, ha pensato a questa canzone giapponese, cioè, tell us about this Japanese song. We're very curious. Oh, yes. Okay, so you were asking about the different style of yes, how some songs are in Japanese. This song is about... This one in particular, yes, is from the 60s. My mom used to sing this song. And this is like a traditional... It's an older traditional song. And it basically translates... it's very poetic. It's about how the color of the flower is the color of the love, the color of the sunset is the color of the memory. So it's kind of descriptive of nature and how that is in terms of emotive feelings. Okay. Yeah, sorry. È una canzone giapponese molto molto vecchia, degli anni 60, e ha cercato un po' di tradurre i testo, chiaramente non deve essere facile. Parla di come il colore, what was it? The color of the flower is the color of my love. Il colore dei fiori è il colore del mio amore. The color of the sunset is the color of my memory. Il colore del tramonto è il colore dei miei ricordi, molto molto bella. Immagino sia molto famosa in Giappone. Is it a very famous song in Japan? I think it was back in the day. I don't know if it's resurfaced as a popular song now, but it's a song that I really love that my mom taught me. So. Sì, ha detto che era molto famosa all'epoca e lei la ama molto perché appunto è una canzone che le ha insegnato sua mamma, quindi chiaramente ci sono dei grandi ricordi legati. Can you tell the title? Yes, it's called Shiroi Iro wa Koibito no Iro. Ok, il titolo l'avete sentito? Sì. Abbiamo capito. Chiana dal vivo. Hanabira no shiroi iro wa koibito no iro. Natsukashii shirayuri wa koibito no iro. Urusato no ano hito no ano hito no ashimoto ni saku shirayuri. Hey. Che meraviglia, meraviglia, veramente. Abbiamo anche avuto una ballata giapponese. Il giapponese è un unicum, è la prima volta. Fra l'altro, il giapponese di Chiana è perfetto, giusto? Sì, cioè, sì. Your Japanese is noi perfect. Lo conosciamo benissimo. Facciamo un po'. Noi che lo conosciamo benissimo, poi è la nostra seconda lingua. Quindi. Esatto. Era una canzone molto, molto dolce e ricordava un po' anche certe ballate folk inglesi, ad esempio. It was something of the old British folk in this song. Was not all in all. It was yes, not it's very more, strange. It's more traditional folk song. Yes, it is Japanese yeah. folk song. Bene, ti hai emozionato? Sì, no, ma siamo un po'. È una cosa un po' veramente. Non un po', tanto strana avere qui una vaiana che ci canta una canzone giapponese. Insomma, non è che tutte le radio possano permettersi queste cose, diciamocelo chiaro. È un grande onore per la Radio Veneto. Volevo, vabbè, dopo parleremo un attimo del tour, perché Chiana è appena arrivata in Italia, come abbiamo detto, appunto colpita dal drammatico jet lag, ma resterà nel nostro paese piuttosto a lungo. So you're going to stay in Italy for quite a long time until September, right? Yes, 3 months. Tre mesi resterà qua, benissimo. Yes. E a diverse date. Volevo chiederle se è già stata in Italia. Is this your first time in Italy, no? No, this will be my third tour here, and I've visited before as well, but this is my, in terms of doing tours, this is my third one. Okay. Very blessed to be here again. Il suo terzo tour italiano, penso il più lungo, but this is the longest one? Was it, how many months before? I don't remember. 2 months before, yeah, maybe this is the longest. Okay. Yeah. Ci fa piacere. We are happy to have you here. I'm very happy to be here. Se tu gli chiedi se gli piace l'Italia, lei ti risponde no, la amo. La amo? No, she said that I have to ask you if you like Italy. Oh, of course. No, see, he asked me that before, and I said, no, I don't. I love Italy. Totally different. Love, like with a passion. So. Gliel'avevo chiesto oggi, lei mi ha risposto così. Bene, bene. A proposito dell'Italia, apro una piccola parentesi, ti porto i saluti un po' da tutta l'Italia, perché siamo collegati con la Sardegna, con Paola, con la zona terremotata, con Paolo Parmigiani, poi ancora con Roma, con Luigi Mariano e Stefania, insomma, che ci sta ascoltando, e poi con la Lombardia, con che non mi ricordo più il nome, adesso te lo dico subito immediatamente, con Enza, che quindi ci stanno ascoltando un po' da tutta Italia, insomma, quindi... People writing on Facebook and listening... through the podcast. Oh, are they? Oh, wonderful. Like, Aloha. Well, talking about Facebook, you have a website, of course. Yes, I do. KianaMusic.com. Okay. And also on Facebook, it's Pages Chiana Music. Ok, ecco, vi ricordo che Chiana è scritto con la K, se lo cercate su internet, appunto, il sito è Chiana Music, tutto attaccato.com. Così potete trovare tutte le informazioni, poi alcuni dei suoi dischi si trovano su iTunes e su Amazon anche, insomma, cioè, i vari sistemi che adesso permettono di entrare in contatto con la musica, anche quella delle parti più lontane del mondo, grazie alla tecnologia, insomma, certo. I suoi lati negativi, ma ne ha anche tanti estremamente positivi. Magari ci stanno ascoltando anche dal Giappone, perché i suoi genitori magari sono collegati. O forse stanno dormendo. He said that maybe someone is listening from Japan, but maybe yes, they I are think sleeping. Maybe they might be, I don't know. Yeah, it's early in the morning there, I think. Yeah, it's 5 o'clock in the morning. Yes. Sì, è molto presto, è una mattina molto presto in Giappone in questo momento. E, torniamo alla musica registrata con un altro album di Chiana che si intitola A New Way. Prima ci ha presentato una versione acustica di uno dei pezzi di questo album e adesso invece ci ascolteremo il pezzo che lo apriva, che si intitola proprio A New Way. Nella copertina di questo disco... lei è molto hawaiana perché davanti al mare. The speech was taken. That was in Hawaii. Yes. In Hawaii, yes. Mm-hmm. Ok. Proprio come ce l'immaginiamo: una spiaggia al mare e una bella ragazza che prende il sole. Cosa ci può essere di meglio nella vita? Allora, A New Way, e questo è dall'album A New Way, appunto, di Chiana. Creeping up on every wall, I don't even know how I can't recall the reasons, but I keep repeating. Every time I think I've seen the light, I realize that it's only in my head that I won the fight. 'Cause it's only beginning. Sometimes I can't breathe at night, and I wonder if I'm still alive. Every pain that aches inside takes over, but somehow I'm gonna be alright. Teach me a new way for letting go of what I hold so dear, to learn to love in every face of fear and say it's a new day. Remembering all that I really am, having the strength to follow where I stand. Please teach me a new way. Everything I once thought was so clear has taken me further than what was near to knowing. Is this all just illusion? How can we really trust that we are one when the shadows scream, the lies that make us run from going? Can we unleash these delusions? Sometimes I can't breathe at night, and I wonder if I'm still alive. Every pain that aches inside takes over, but somehow I'm gonna be alright. Teach me a new way for letting go of what I hold so dear, to learn to love in every face of fear and say it's a new day. Remembering all that I really am, having the strength to follow where I stand. Please teach me a new way. Threshold I pass gives meaning to how I try. This chaos won't last, one day we will all know. Teach me a new way for letting go of what I hold so dear, to learn to love in every face of fear and to follow where I stand. Please teach me a new way to see the beauty that we try to mask, to live each moment like it was our last. Please say it's a new day. Oh, new day is here. Titolo del brano che abbiamo ascoltato, che dava il titolo anche a questo album. È interessante notare come in questo brano Chiana usasse la sua voce in maniera estremamente diversa, ne stavamo parlando con lei, molto più profonda, ha un'estensione decisamente ampia che le permette quindi di variare parecchio l'interpretazione. E adesso ha detto che ci suonerà una cover, ma non mi ha detto cosa. E io avevo letto che nelle Hawaii lei intratteneva anche la gente in situazioni, le persone che sono lì in vacanza, e era capace di suonare anche per 4 ore di seguito. Is that true what I read, that you in Hawaii you were playing for 4 hours for people in a hotel every day? Oh, you mean, no, well, I, you mean on the, on Kalakaua Avenue? Yes, I didn't remember the name. Si è detto il nome del posto, io non me lo ricordavo. Yeah, when I was doing it consistently, it was maybe 2 or 3 hours a night, almost every day. And I would be out, yes. E suonava anche 3 ore a sera, quasi tutti i giorni. Immagino che facesse molte cover. So you were playing a lot of covers for that. Covers and originals, yeah. Yeah, and a blend of both. Which kind of covers, just to give us an idea? Che tipi di cover? Usually songs that I just really loved. That because it usually takes me many months to learn a song, so it has to be something that I really enjoy. Really? Yeah, sometimes it takes a year to learn a song for me. So yes. Si è detto che devono essere canzoni che le piacciono molto perché è molto lenta a impararle e quindi bisogna che le ami veramente tanto, sennò non si mette neanche a farlo. Do you have some example, just to give us an idea, giusto per sapere un po' che canzoni. Oh, you mean the kind of. Yeah, what some titles. Famous songs that we know, yeah, canzoni famose. Let's see, there's I'm Yours from Jason Mraz. That one was very popular. I got a lot of requests for that one. Hallelujah. Hallelujah by Leonard Cohen. From Leonard, yes, Leonard okay. Cohen. A lot of Adele songs. Sorry? Adele? Songs from Adele? Ah, the canzoni di Adele. Yes, of course. So yeah, and a lot of songs I love from the 60s, I would kind of. Molte canzoni degli stuff anni from 60. The Beatles or, oh, yeah. Okay, the Beatles. Journey. The Journey. Yeah. Metallica. Metallica. Iron Maiden. Yes, I have a wide range. I like many different kinds of music. Anche una canzone degli Iron Maiden che francamente non me l'aspettavo neanche questa. Magari che the songs from Iron Maiden was translated in Japanese just to be weird 100%. Oh. No. Well, I have some songs that were translated into Japanese from an American band. I could do that as well if you want me to do more Japanese. No. It was just a joke. Ho detto per scherzare, gli ho detto che se voleva essere strana fino in fondo, a quel punto la canzone degli Iron Maiden poteva cantare in giapponese. Aveva battuto, finiva sul Guinness dei primati. It's possible. I could. It would just take time to translate it, though. Sì, detto, ci vuole un po' di tempo per tradurre, ma sarebbe possibile. Mi piacerebbe. Vabbè. C'è un tuo fan che ha visto la data che fai a Fiorano, cioè Paolo, e dice che se suoni a Fiorano, quando suonerai da sola, se fai gli Iron Maiden, sono una leggenda, sono 24 anni che li segue, dice. E quindi aspetta la tua cover quella sera. So one of the followers on Facebook said is a huge fan of Iron Maiden. Oh, really? So now he's waiting for you to play that song in the concert at Fiorano. Which concert? It's September 7th. You have sure. 1 month of time. Yes, I will do it for that fan if they ti chiedono di cantare, remind me when they're ti chiedono there. di cantare una canzone degli Iron. What do you say? Now we have a request for a song from Iron Maiden. Oh, it's a request now to do now? It now. It's possible. Yeah. Can you do it? Let's see if I'm warmed up enough. Hopefully, let's see. Ha detto che ci prova. I'm still learning this song, so let's see here. Il bello della diretta è questo, cambiato scaletta. Andiamo a occupare lo spazio di Renato Ferro. I really love this song because the words go with my life right now. It's about dice che la canzone le piace really molto with. Perché il sente il testo molto vicino alla sua vita. What's the title of the song? It's called Wasted Years. Wasted Years, anni persi. Come on. For the fan, I don't know his or her name, but. Ok, dedicato a Paolo, si chiama Paolo. Oh, from Paolo. Paolo. Okay. From the coast to coast, across the seven seas, I'm traveling home. Myself and all the things I sometimes do isn't me but somewhere else. I close my eyes and think of home. Another city goes by in the night. Ain't it funny how it is? You never miss it till it's gone away. And my heart is lying there. To my dying day, so understand. Don't waste your time always searching for those wasted years. Too much time on my hands. I've got you on my mind. Can ease this pain so easily. When you can't find the words to say, start to make it through another day. My heart just wants to cry. Throw my hand up to the sky and so understand. Don't waste your time always searching for those wasted years. They will make a stand and realize you're living in the golden years. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ho i brividi, album Somewhere in Time del 1986, grande, grande, brava, ti fai i complimenti, grazie di cuore, dici un bacio, ci manca la solo di Adrian Smith e poi sarebbe... I tried. That one takes warming up to do. This is Paolo writing. Un tuo fan. Oh, grazie. Mi stavo facendo un'immagine in testa in questo momento, perché il problema del metal è che a volte si prendono un po' troppo sul serio, no? Sono tutti così duri, cattivi, tutti vestiti uguali. E sarebbe bello però vedere un gruppo metal con una cantante Havaiana. Come lei, Havaiana, esatto. Tutti vestiti di nero, arriva lei che c'ha mille colori addosso e li distrugge. Yeah, I was just this image in my head of a metal band with a singer like you. No, all of them dark and black and very... Well, I can be very guy. Gothic too, depending on my mood. So I can go all black or all rainbow, depending really? On the day. Yes. Ha detto che a volte lei... I'm usually rainbow, though. A volte può essere gothic, ovvero vestirsi tutta di nero, però normalmente è più rainbow, appunto arcobaleno. Penso se si veste di nero non la riconosce nessuno. Sì. Arcobaleno. questa intervento di Paolo ci ha portato a un cambiamento della scaletta. Io non so se Chiana vuole farci la canzone che aveva in mente prima. You, sì. Before you were thinking about a different song, can you play that one for us now? I don't know what song was it, by the way. Oh, sure. Let me think. What was I thinking? How are we on the... Yeah, okay. Yeah, si ha paura di non essere in tempo. No, no problem. Naturalmente qui siamo in diretta dal vivo qui su Blu Radio Veneto. Chiaramente è un happening, siamo fra così una cosa fra amici per divertirci. Chiana è così gentile da dividere il suo tempo con noi e da renderci felici con la sua musica, per cui dobbiamo solo essere felici di averla qua, e le lasciamo naturalmente tutto il tempo che le serve per prepararsi e per fare le sue cose. Vi ricordo comunque, intanto approfitto per fare un po' di pubblicità, perché appunto Chiana resterà in Italia abbastanza a lungo. In questo periodo c'è una serie di date. Possiamo anche ricordarle, Stefano. Sì, è già stata a Orio al Serio pochi giorni fa, e il prossimo concerto sarà il 15 luglio a Venaria Reale, al Festival Hope in piazzale Vittorio Veneto, dove c'è quel bellissimo castello dei Savoia, un posto che penso lei amerà molto perché le piace l'arte. È ancora meglio probabilmente ad Acqui Terme, che suonerà al Teatro Romano il 22 luglio, ed essere un altro posto piuttosto magico. E poi il mitico Folkest a Spilimbergo il 27 luglio in Piazza Garibaldi, una delle più, forse la più vecchia manifestazione folk italiana, benemeriti, hanno portato in Italia un numero incalcolabile di grandi musicisti in tutti questi anni, che poi anni. Sono diventati anche famosi anche per tutti. Ah, sicuramente. E poi il 28 e il 29 luglio sarà a Vernasca in provincia di Piacenza al Busker Days, un festival in cui ci sono tanti musicisti da tutto il mondo che suonano nelle piazze. Il 9 agosto a Porto Venere, altro posto che penso la renderà felice, siamo nelle Cinque Terre, è una meraviglia, dove c'è un festival intitolato Women and Guitars, direi che non c'è altro da aggiungere, già il titolo spiega tutto. E poi l'11 e 12 agosto è il famoso concerto Vota la Voce, lei è una guest star, non verrà votata perché sennò gli altri non hanno speranze, e si è a Fiumana Reggio Calabria. E poi il 24, 25, 26 agosto il mitico Buskers Festival di Ferrara, è un appuntamento veramente meraviglioso, di cui le strade di Ferrara si riempiono di vita, di musica, e fra l'altro insomma sappiamo che Ferrara vive giorni difficili come tante altre località dei dintorni, quindi questi musicisti che portano un po' di gioia, di felicità alle persone che hanno sofferto anche per il terremoto, direi che è una, quest'anno in particolare è ancora più bello questa manifestazione, più importante. Poi Fiorano, l'ha già detto il nostro ascoltatore, al MAF del Castello di Spezzano il 7 e l'8 settembre. Fiorano, posto mitico per gli appassionati di auto, come sottoscritto. E poi vicino a Padova, ecco questo è importante perché alla Giudecca, a Venezia, la nostra amata Venezia, il Festival delle Arti il 15 settembre, che chiaramente suonare a Venezia, anche questo è estremamente suggestivo. E poi l'ultima data, anche qui se parliamo di donne in chitarra, Madame Guitar Festival a Tricesimo, in provincia di Udine, il 21 settembre. Quindi girerà parecchio, vedrà tanti bei posti. Made a list of your concerts and there are plenty of very nice places where you will go. I'm sure you will. Thank you. You're going to have a very good time here. Aggiungo ancora una cosina su queste date che tu hai detto, Stefano, che di tutte queste date ricordiamo un pizzico di vanità per la nostra emittente, che Blu Radio Veneto è media partner per questo tour italiano di Chiana. Giustamente me ne ero dimenticato come al solito. So, are you ready? Yeah, you want me to do another song? Yeah. Yes? Okay. Is it okay if it's an original? Okay, yes. Okay. Sì, allora suona una delle sue canzoni. I'll mix poi... it up a little bit. Ok, ha fatto un po' di confusione, quindi magari la cover la riproponiamo più tardi. What's the title of the song? The song is called Precious and it's a special dedication to a friend of mine who just passed away, Dario Pistolozzi. It was his favorite song of mine. Ok, questa è dedicata a un suo amico che è scomparso da poco, Dario Pistolozzi, e si intitola Precious. Tiger eye of knowing, exploring the undefined, promoting clarity and vision mind, sapphire and peace of mind. You are birth and the precious, a rare gem and valuable. Your essence of priceless, beacon, a treasure infallible. Found it precious, a rare gem and valuable. You're a wealth in beauty, a crystal among the stones. No. Like my etheric self now strong, like moonstone offering deep accord to keep me keeping on. Platinum displays of courage lately dancing in the night. Your opal shower me with color, embracing my true light. You are birth and the precious, a rare gem and valuable. Your essence a priceless beacon, a treasure infallible. You are birth and the precious, a rare gem and valuable. You're a wealth and beauty, a crystal among the stones. Stabilizing energy, a silver shimmering balloon, ruby union with the heart, activating to attune, protecting like obsidian, dispelling wounds or harm, jinx or a condition, or you're like an alum charm. You are bright. precious, a rare gem invaluable. Your essence of priceless, beacon, a treasure infallible. You are birth and precious, a rare gem invaluable. You're a wealth and beauty, a crystal among the stars. Senza parole. Questa era Precious, dedicata a questo, non so, questa persona che avete conosciuto. Who was Del Dario? We don't know him. It was a friend of yours. Is Italian. And what happened to him? I mean, cambiamo discorso. Okay, sorry, okay, non vuole parlarne. La canzone Precious è tratta dall'album Vertigo, di cui abbiamo ascoltato prima una canzone. Adesso ce ne ascoltiamo un'altra, è stata sempre dallo stesso disco, e si intitola Inner Star, così lasciamo anche riposare un attimo Chiara. Tendrils of the shades of my earth tones. Your one breath makes my willows quiver. You take my senses on a journey I have yet to find. Soon we can bathe in our spiritual river. Where I wanna be is where you are. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Bene, abbiamo buone notizie, potremmo sforare di un po', anche perché Chiana con il suo jet lag adesso è passato, come se fosse mattina per lei, così. I'm saying that for you now it's like early morning, so you wake up, you're full of life. È la potenza della musica comunque che fa questo. Questa canzone da Vertigo si intitolava Inner Star, era molto interessante il modo in cui è stata realizzata, praticamente come avete sentito la voce di Chiana è stata sdoppiata cantando su due tonalità completamente differenti, che è una bellissima cosa se uno ha la possibilità di farlo naturalmente, e il risultato a me ha ricordato le Hearts, un gruppo americano che qui in Italia non è famosissimo, erano due sorelle, una delle quali aveva una voce più alta e una più bassa, erano appunto famose per cantare sempre con queste due tonalità sovrapposte, e lei ha realizzato la stessa cosa con una sovrapposizione di studio, ma senza bisogno di aiuti esterni. Volevo chiederle un attimo riguardo a questo nuovo album che penso sia in uscita o uscito veramente da poco. So, this record is brand new, am I right? Yes. So is it now officially on the market? It is official in the sense that I'm selling it and I'm trying to get it online, but it's not online as of yet. Ah, okay. It's, yes, but through my website people can order it personally from me or at shows, I have it for shows. Ok, al momento il disco è proprio appena pronto, ho paura di sporcarmi le dita con l'inchiostro, quello che si intitola Cycles, Cyclones and Chameleons, al momento non è ancora una distribuzione, lei lo vende ai concerti oppure può essere comprato tramite il suo sito, che vi ricordo è chianamusic.com. E niente, volevo chiederle riguardo a questo disco, di solito i musicisti dicono sempre che il loro ultimo disco è il più bello, non so. Every musician always said my last record is the best one I ever made. what you want to say about this record? I am of course very proud of all my albums. this one in particular was really interesting for me because two of the songs out of the album were, like I was saying earlier, it was songs I wrote in high school. So the first few songs I ever wrote, and then everything else was maybe 4 years ago. During different transitions in my life, so it spans maybe 15 years of different experiences, so it's definitely compared to the others kind of more rich in terms of emotions. everything kind of coming together into one place, I guess. Okay, si dice che rispetto agli altri suoi album questo è ha come una visione più ampia, perché ci sono addirittura due canzoni che ha scritto quando era alle scuole superiori, che a vederla potrebbe essere stato anche l'anno scorso, ma insomma in realtà si tratta di un arco di tempo di 15 anni e lei appunto, io mi chiedo come mai abbia tenuto così a lungo queste canzoni. Is there any reason? Because these songs have been there for such a long time. Yeah, they were... Will you play it live? During these years, le persone dal vivo in questi anni. Those two songs I had on my first demo, I think, in high school, and then I didn't put it on an album because I was kind of just writing new music, I felt it was appropriate to put on my full length album somehow. Huh. Sì, due canzoni che ha messo nel suo primo demo appunto quando era alle scuole superiori, e poi non le ha incise perché nel frattempo aveva scritto altre canzoni, e la cosa strana è che molte volte uno, riascoltando le cose che faceva quando era molto più giovane, le trova ingenue, o many times when you look back at something you made at very early age, you think, oh, I was so young, so inexperienced, and it sounds... That's true. It sounds, yes, I have many songs like that I don't think I will ever share, but those two in particular, interestingly enough, it was about just struggles in relating or understanding love or the world, which of course I still feel in different ways, so it felt still very authentic to where I'm at, regardless of the time that passed, so I felt it was okay to put there. Ok, si ha detto che anche lei ha scritto molte cose che adesso le sembrano sorpassate, ma queste due canzoni in particolare parlano di sentimenti, dell'amore, di cose che tuttora prova e quindi le ha trovato appropriato recuperarle e metterle nell'album. Interessante questa cosa. Which songs are those? Che canzone stiamo parlando? 12, yeah, the very last track, number 12. L'ultima, Love's Cold, Love's Embrace. Cold Embrace. And then I think the 10th one, Irrevocable Me. Irrevocable Me, la numero 10. Ok, giusto. Just to know, you know? Yeah, sure. So when I listen to the record I can try to find out the difference. Quando riascolterò il disco cercherò un attimo di identificare, di capire se si sente poi questa distanza temporale. It's funny because back then I didn't write the same way. Of course I didn't have like the verse, chorus, bridge, that whole format. So if you listen closely you'll see it's kind of a different flow. Si dice che ascoltando bene si nota che le canzoni hanno una costruzione diversa rispetto a quello che ha fatto successivamente. Forse era un po' più you were more traditional. Sì. Yeah, nowadays I try to keep it more kind of mainstream pop format, and I might branch out into different ways as well. Anzi, dice che adesso cerca di stare più in un formato mainstream, mentre da giovane era più you were more erratic. You were trying to find your way. Yeah. Sì, come sempre. It's like I don't know how to write a song. I'm just going to try. Ecco, non sapeva come fare, quindi stava semplicemente provando. Ma a volte, quando si è molto giovani, ci cerca di fare qualcosa di diverso solo per una questione di ribellione. Sometimes when you're very young, you try to do something different just because you want to be a rebel in any way. Yeah, I wasn't so much a rebel. I was just kind of experimenting, I guess. Sì, detto, non era ribellione, era proprio esperimenti. It was I always write music from poetry first, so it comes from something that I was experiencing, whether it was difficult or sometimes happy, but mostly something that I struggled with, and then it became a poem, and then I tried to put music to that. So. Sì, lei ha cominciato a musicare le sue poesie che nascevano qualche volta quando era felice, ma la maggior parte delle volte quando aveva dei problemi, e probabilmente anche a quell'età si sa che ogni piccola cosa diventa una tragedia. When you're 15, yeah, every little problem is giant, is yes, big trouble for you. So everything is more extreme at that age. So it's probably yeah, it normal. helped me through certain stages. Sì, every time I wrote a song, it was always cathartic and helpful for me. Ha detto che l'ha aiutata a passare dei momenti difficili scrivere queste cose, perché appunto quando si è così giovani i sentimenti sono più estremi. Bene, adesso le chiedo di can you play another song for us? Yes. Which song is this? Di che canzone si tratta? I was thinking of doing a song from the 60s because I was really influenced a lot by that and my mother. So è una canzone degli anni 60 da cui è stata molto influenzata, che ha insegnato sua madre. No, non vi diciamo il titolo perché la riconoscerete sicuramente. È una canzone molto molto famosa che fra l'altro risale a prima dei 60s. This song is much older than the 60s. Very famous in the 60s. In the 60s, okay. Of course. Allora è Chiana sempre con noi dal vivo qui su Blu Radio Veneto. Buon ascolto a tutti. I'm going to Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there, then he'll be a true love of mine. Tell him to make me a cambric shirt, parsley, sage, rosemary and thyme. Without no seeds, only little worms, then he'll be a true love of mine. costly sage, rosemary, and thyme. Scarborough Fair, un vecchio traditional che poi è diventato un hit mondiale appunto quando lo rifecero Simon & Garfunkel nel 65, se non ricordo male, che ho Maurizio che mi fa segno di sì, quindi abbiamo la certezza che l'anno è giusto. È veramente una bellissima versione, molto vicina anche alle radici di questo tipo di musica, cioè proprio i canti tradizionali e popolari. Complimenti, wonderful. Grazie. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo, per fortuna abbiamo un paio di estratti dai suoi album e ancora un paio di canzoni da sentire dal vivo prima di chiudere questo bellissimo appuntamento con Rock Wave. E, ritorniamo all'album A New Way per ascoltarci un altro estratto che si intitola Silent Heaven. And regret leading to hate. We can transform them with our own simple choices to rise above times of destruction into what we create. For your temple can't be broken. Should be those words unspoken. In the silence is where our heaven arrives. Oh. I hope the many gifts that are just within our reach. Their colors and ribbons around your pain, with their infinite designs and uniquely tasseled trims. They are still made from the same paper and grain. For your temple can't be broken. Shed be those words unspoken. In the silence is where our heaven unwinds. Warm compassion to those who are veiled from seeing the power in each piece they hold. For your temple can't be broken. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Questa era Silent Heaven, in cui Chiara penso suonasse il pianoforte. Where you playing the piano here, right? Yes. Sì, perché lei suona la chitarra, ma mm-hmm. anche il pianoforte. E stavamo parlando ancora qui in studio della cover di Scarborough Fair, che cantata da Chiara è molto più vicina alle radici della canzone, le radici molto antiche. Meno pop e più vicina appunto a quello che cantavano per strada i menestrelli troubadour chissà quanti secoli fa. Prima mi ho dimenticato di chiederle se il suo nome ha qualche significato, ma adesso glielo chiedo perché ho scoperto, voi non lo sapete ancora, ha un significato bellissimo. So the meaning of the name Chiana, you said it? Yes, it means end of the rainbow in Hawaiian. La fine dell'arcobaleno, cioè questi chiamano, nasce una bambina e la chiamano la fine dell'arcobaleno. I think it's very very civilized country where they when they have a newborn baby, a girl, and they call her the end of the rainbow. It's, right. It's beautiful and of course it's a good wish for the future for the baby. Yes. Veramente un nome stupendo che fra l'altro poi è finito per essere, non so se lei è cresciuta così perché è influenzata dal nome o se semplicemente i suoi avevano già capito come sarebbe stato. It's like you, in your life you are following your name. I am, yes. Ecco, non ho detto, le sue unghie sono un arcobaleno. Your nails are like... My nails are rainbow. Like a rainbow. Yeah. Your dress. Dress, yeah, everything. Tutto, è coloratissimo. I can't escape it, really. È coloratissimo, non può sfuggire, ha detto. Dunque, qui siamo un po' in confusione tutti quanti. Io volevo chiedere una cosa a Chiana, se me la passi poi tu. Certamente. Cosa ascolta lei quando è da sola? Cioè, che musica gli piace ascoltare? So Agustino is asking what kind of music you like most? What do you listen when you're to alone? To listen to when I'm alone. Definitely depends on the mood I'm in. If I want to just relax, I have a whole playlist of sometimes just instrumental, because when I hear words I think too much about them. Quando si vuole rilassare ascolta musica solo strumentale, perché quando si comincia a sentire le parole comincia a pensare, quindi non si rilassa più. And I actually I have albums of my own piano solos and other instrumental music as well, but when I hear my own music I start thinking too much about how I did something right or wrong, so I also don't listen to my own music. But yeah, it tends to be a playlist of maybe 50 different artists. I kind of pick and choose ones. Quando lei ha anche dei dischi strumentali che ha fatto al pianoforte, ma quelli non li ascolta per rilassarsi, perché si troverebbe a pensare poi di tutte le cose che ha fatto, come le ha fatte, come avrebbe potuto fare, quindi il relax a farsi benedire. E poi ha una playlist di una cinquantina di musicisti, di artisti, da qui fa un po' fatica a tirar fuori qualcosa. I have a playlist of songs I'm learning, which is about maybe 150 different songs. I have one of dance music when I want to work out or clean the house. So it's all kind of in playlist now. It's very una playlist di musica dance che yeah. le serve quando fa ginnastica o pulisce casa, ecco. Come se fosse la stessa cosa, e una playlist di 150 canzoni che vorrebbe imparare, ma prima ha detto che ci impiega un mese. You said that it took you a long time to learn a song. So if you have 150 to I learn, know it's, gonna it's take going a while. To be long. That's why I have this trusty book here. This rainbow book helps me with the lyrics. So I learn the basics of the guitar. And then I have the lyrics with me usually for okay. a good year before I can finish learning the song. Sì, c'è un librone con lei, naturalmente con la copertina arcobaleno per non sbagliarsi, dove ci sono i testi delle canzoni delle quali ha già imparato la musica, che le viene evidentemente molto più immediato, ma ancora ha fatto fatica a rammentare tutti i testi, e quindi se li porta dietro così per facilitare. Però alla fine Agostino non ha fatto dei nomi. No, infatti. Però Agostino is not happy because you didn't drop any name. Oh, names. Oh, you want me to drop names. Okay. Okay, let's see. Well, I really love Sarah McLachlan. Jewel, of course, when I was in high school, she was a big influence on me. Who? Jewel, the singer-songwriter Jewel. Jewel? It was a kind of folk pop artist. Okay, perché mi ha citato Sarah McLachlan. Alanis Morissette. Alanis Morissette. Jason Mraz is great. So those are more the pop artists when I learn songs. It's more that I love Maroon 5 as well. Maroon 5, yeah. Molti so those are more pop. The pop, yeah, my pop playlist. And, io ho sentito Alanis Morissette in un paio di canzoni. I could hear the Alanis Morissette influence in some of your songs. Yeah, she influenced me a lot when I was going through some stuff. she's very kicky. No? Yes, she's, I love it. È molto, molto energica, in effetti. Hanno queste c'è, cose in comune. C'è un ascoltatore che chiede se conosci Elisa e se ti piacerebbe cantare assieme a lei. One of our listeners is asking you if you know an Italian singer, female singer named Elisa. Yes, a friend of mine actually, David, he sent me a couple of her CDs, so I listened to a few of her songs and it's really wonderful. I haven't learned any of her songs yet though, if that's ha detto sì, ha detto che un suo fan le ha mandato un paio di dischi che le sono piaciuti molto, ma non ha ancora imparato nessuna canzone. And the same guy is asking if you would love to sing with her. Oh, with her? Oh, that would be wonderful. Yeah, she's amazing. Ha detto che le piacerebbe molto perché è amazing, sorprendente, grande. Does he know her? He can make that connection? Or? I don't know. But you know what? Maybe she will be at Folkest. Oh, yeah? Because oh, she lives very close there. Lei abita vicino a Spilimbergo, per cui magari al Folkest, chissà se è libera, se è da quelle parti, può darsi che se la trovi lì. O anche a Tricesimo, insomma. You have a couple of concerts close to her house. Oh, so nice. Maybe you can try to get in touch. Okay. Sarebbe interessante. Fra l'altro, Chiana, fra le cover che faccio, anche l'Alleluia di Leonard Cohen, e Elisa ne ha fatto una bella versione. She played the cover of Alleluia as well. Oh, she does too. Yeah. Okay. Okay, you can play something more? Sure. Oh, did he say something? No. Oh. No questions? No question. He wanted to ask you to play. I forgot what I was doing just now. Ci sta pensando. Let's see here. Let me think of something. Okay. See, this is why I always have my list, because my capotasto. If I didn't have my list, I would be totally lost. Okay. Okay. Cosa ci fai ascoltare? Tutto in diretta, siamo I feel like I should do an upbeat song because I've been doing a lot of slow stuff. Sì, dicevo di fare una canzone allegra perché ne ha fatte parecchie lente, tranquille. Quindi via il capotasto, cambiate idea di nuovo. Il bello della diretta, Steph. Is that good to well people might be going to sleep right now though, so sì. Okay. Detto, la gente potrebbe addormentarsi a quest'ora, per cui adesso deve aver deciso. Oh, I know what I'll do. As I mentioned earlier about my mother, she taught me different songs from around the world, and this is one of the songs she learned when she was in Mexico. When she was in Mexico? Yes. Questa è una canzone, prima ci ha detto che sua madre le ha insegnato canzoni da varie parti del mondo, e questa è una canzone che sua madre ha imparato quando era in Messico. And this is also on the CD we made together, it's called La Llorona. È una canzone che è nel disco che loro hanno fatto insieme, si intitola La Gironda. E quindi adesso ci canterà in spagnolo. Signori, Chiana, sempre dal vivo qui da noi su Blu Radio Veneto, buon ascolto. Todos me dicen lo negro, llorando negro pelo, cariñoso. Todos me dicen lo negro, llorando negro pelo, cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorando picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorando picante, pero sabroso. De mi llorona, llorona, llorona del sur celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona del sur celeste. Hermoso y pilla barbas, llorona que la virgen te creí. Hermoso y pilla barbas, llorona que la virgen te creí. Salías del templo de llorona cuando al pasar yo te vi. Salías del templo de llorona cuando al pasar yo te vi. Hermoso y pilla barbas, llorona que la virgen te creí. Hermoso y pilla barbas, llorona que la virgen te creí. Posso dire una cosa prima che parli tu, Steph? Sicuramente, siamo nella democrazia. Stavo parlando proprio poc'anzi con Chiara qui vicino, che è venuta a trovarci anche lei, che siamo andati giovedì scorso, no, anzi mercoledì scorso era, a sentire John Baez. Durante il concerto di John Baez, lei assieme a Marianne Ayomac hanno cantato questa canzone. Agostino, a few days ago, went to see Joan Baez. Oh, wow. And she sang exactly the same song. No. Yes. Really? You know, my mother was influenced by Joan Baez very much. And she taught me that song. So how amazing is that? È una canzone che fa parte del concerto proprio di Joan Baez che porta in giro per l'Italia. Insomma. Ah, sì. Lei ha detto che sua madre era molto influenzata da Joan Baez. D'altra parte, gli anni erano quelli. E, yeah, in the 60s, Joan Baez was huge, really, yes, and yes. I can understand why a female singer was following her. Capisco che una cantante la seguisse, soprattutto se aveva la stessa passione per la musica popolare. E quindi c'è stato questa. Hai sentito due volte la stessa canzone nel giro? No, ci siamo proprio parlato con Nagiera. Infatti, è la stessa canzone. Senti che bella, insomma. When my mother met my father in Hawaii, he was requesting Joan Baez songs, and that's how they first met and fell in love when she was singing for him. So. Oh, okay. John Baez, Joni Mitchell, you know. I suoi genitori si sono conosciuti alle Hawaii perché suo padre chiese a sua madre di cantare una canzone di John Baez e così hanno ecco. Cominciato, diciamo, a legare. Ma suo padre era lì in vacanza. What was your father doing in Hawaii? He was studying linguistics at the University of Hawaii. Ah, and my mother, lingue my, all'Università degli Hawaii. And my mother was, of course, raised there, and she was studying, I think she was going to be an archaeologist, but she was studying to be a doctor at the time. And well, she was doing all kinds of things. And then she, when they met, it was just one of those magic moments that it changed their whole lives forever. So it was stato un colpo di fulmine fra loro due. La madre invece alle Hawaii stava studiando, non si ricorda se archeologia o medicina, insomma era una tipa abbastanza erratica. Stavo pensando che negli anni 60 un giapponese alle Hawaii, non so, non era passato tantissimo tempo da quando I was thinking that in the 60s was not long after there were some troubles between the Japanese and the Hawaiians. Yes. So your father was, I don't know, was it common for the Japanese to be in Hawaii? Well, c'erano molti giapponesi alle Hawaii negli anni 60, insomma, si ricordavano ancora del bombardamento di Pearl Harbor, penso. Yeah, I'm not sure how common it was. I mean, he was very intelligent and he had a scholarship to go to UH. So maybe that was less common. I'm not sure, but he looked very local, though. My mother always says she didn't realize he was Japanese until much later because he had very long hair. He was very dark from getting a tan, and he was barefoot everywhere, so he blended in very well. So she didn't even realize until later. Nessuno capiva che era giapponese perché aveva la pelle scura, si era abbronzato, aveva i capelli lunghi, e la madre per prima era convinta che si trattasse di un locale, di un hawaiano, ed era lì perché aveva avuto una borsa di studio appunto per perfezionare la lingua nelle Hawaii. È detto che è un uomo molto, molto intelligente. Prima ha detto che sua madre e lei hanno fatto un disco con 7 differenti lingue, ma non so se l'italiano. You said you made this record with 7 different languages. Is there Italian among the 7? No, there isn't, but no, in the future I would love to create something with Italian, yes, definitely. No, let's see if I can remember. There's Spanish, Japanese, English, Hawaiian, Maori, Tagalog. What's the last one? I can't remember the last one. Non si ricorda neanche tutte. Una di queste lingue è il Tagalog. It's Tagalog. Tagalog. Yeah. È una lingua Tagalog. Stiamo imparando un sacco di cose nuove. It's a Filipino dialect. Ah, un dialetto filippino. Yeah. Okay. Pensa un po'. So yes, but not Italian as of yet. But sua madre ha studiato archeologia musicale. You said your mother was studying archaeology. Is musical archaeology? I mean, no. She's like excavating all the music. She lived with the Lacandon Mayan Indians for about 2 years, I believe, or a year or two, back when they were around. So I don't know if they're still sorry, existing. I lost some. I'm sorry. My mother lived with the Lacandon Mayan Indians in the rainforest. Ha vissuto in India sua madre nella foresta pluviale. She was very interested in going to different countries and learning about cultures in a very raw kind of way. Appassionata di altre culture, altre lingue. Abbiamo capito da dove ha preso Chiara. Questo spiega anche la cosa che ha in mezzo agli occhi, che è tipicamente indiana. What's the name of the thing here? Oh, and my forehead, it's called a bindi. The bindi, ecco, è una una decorazione che io ho sempre visto alle donne indiane, e lei la porta appunto in omaggio un'altra eredità di sua madre dagli anni in cui era, in cui stava in India. Ma non ci potrebbe fare un medley di tutti questi dialetti? No, I said, maybe you can make a medley of all these different I languages. I would love to, because I've been so influenced by many different cultures since I was very young, so I take from different places and... I suppose this is something that you must prepare before, right? Which one, what? The medley of the seven different languages. Well, there are a few medleys on that album, the Full Circle CD with my mom. But yes, no, I would need her here with me to do it, I think. Sì, ha detto avrebbe bisogno di sua madre qui per aiutarla a fare una cosa del genere. It's actually her voice when she was 23 and then my harmonies at the same age, so it's very interesting. Because the record was recorded in two different times. Two different times, and you added the harmonies. I added my harmonies, anche yes. Questa è molto interessante. The title of the record is Full It's Circle. It's called Full Circle, yes. Si intitola Full Circle. E praticamente lei ha preso le registrazioni di sua madre quando aveva 23 anni e ci ha aggiunto la sua voce quando anche lei aveva 23 anni. E quindi diventa quasi come un disco fatto da due gemelle. It's like two twins singing. Yes, it's very interesting because, of course, the way the mic sound nowadays is so much crisper, it's a very different feeling. Yeah. And so blending that together was kind of a Si è detto, naturalmente i microfoni a distanza di tanti anni sono cambiati, la tecnica di registrazione, per cui è molto interessante sentire anche come suonano diversamente le voci. Non so poi se sua madre, does your mother have the same voice you have? She has a very folk style, like it's molto folk. I'm more pop, she's more folk, so we're kind of blending together in that way. Yeah. Dice che si fondono molto molto bene insieme. Allora, ti ascoltiamo un ultimo estratto dall'album che appunto è in uscita in questo periodo, che Chiana è qui per promuovere, che naturalmente potete comprare ai suoi concerti. Si intitola Cycles, Cyclones and Chameleons. E il brano, che naturalmente sono tutti stati scelti da lei, si intitola Natural High. Natural high. Blue Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Questa canzone era Natural High, vedeva la partecipazione all'ukulele di Jake Shimabukuro. I got it right? Shimabukuro, yes. Yeah, quasi, ho detto quasi bene come lei. Che è un giapponese, però molto legato alle Hawaii. Ci sono molti seconda generazione, diciamo, di immigrati, e per quello che a lei piacciono molto le Hawaii, ci diceva, perché c'è questa miscela di culture. E questo personaggio è considerato uno dei, forse il più grande suonatore di ukulele al mondo, e è molto famoso soprattutto in Giappone. È un artista di quelli che riempono i palazzetti, insomma, ha venduto milioni di copie, e lei ha avuto così l'opportunità di averlo come ospite in questo suo ultimo album. Adesso stavo per parlare in inglese, okay, scusate, sono un po' in stato confusionale. Siamo a 00:10, quindi siamo vicini alla fine di questa trasmissione, che si chiuderà naturalmente, come nostra tradizione, con una canzone dal vivo. Volevo ricordare, per chi si fosse messo in ascolto in ritardo, che con noi questa sera c'è Chiana, è venuta da Honolulu, un posto di cui abbiamo sentito tanto parlare ma quasi nessuno c'è stato perché è molto lontano, e è qui in Italia per un lungo tour. E volevo ricordare perlomeno le date, diciamo quelle a portata di mano, che per i veneti, che sono a Spilimbergo al Folkest il 27 luglio, mitica manifestazione di musica folk da tutto il mondo, poi in agosto 24, 25 e 26 a Ferrara per il Baskets Festival, e soprattutto il 15 settembre, è una data un po' lontana, quindi dovete scrivere sul calendario per non dimenticarvi, al Festival delle Arti alla Giudeca a Venezia, quindi una magnifica cornice, come dicono sempre quando fanno qualche manifestazione in televisione, insomma è un bel posto dove andare a suonare sicuramente. È una bellissima persona, Chiana, che riempie di allegria qualsiasi posto dove è, in primis nel nostro studio. Abbiamo avuto la fortuna di averla qua con noi, e mi stava dicendo che vuole chiudere con una canzone intitolata Hawaii 78, is that right? Yes. The right number? From Brother Is, yes. From? From Brother Is. Brother Is. Is. You know the song, he has a book. Ah, c'è una, yes, c'è he un can show you the book. C'è un libro, mi dicono, che riguarda questa canzone. Ah, is. Brother Is. Ah, Israel is it the Kamagawa Ole, I think. Yes, is that yeah, one? is it a song that he wrote? Yes, I believe he wrote the song. Sì, questo personaggio di cui non mi azzardo neanche a ripetere il nome, è un altro famoso suonatore di ukulele che diventò famoso con una bellissima versione di Over the Rainbow, che era nella colonna sonora di non mi ricordo che film, Forrest Gump. Ah, oh, there you go. Forrest. Ciao. Ok, che se non vado errato è morto giovane. Aveva dei problemi ormonali, era estremamente grosso, insomma, e aveva una voce meravigliosa, appunto. Probabilmente avrete sentito questa sua cover di Over the Rainbow, perché fra l'altro viene usata regolarmente in televisione, la infilano ovunque perché c'è appunto questa voce angelica. E lui ha scritto anche allora questa canzone, appunto, Hawaii 78, che da quel che ho capito, this is a very important song for Hawaii. Yes, è una canzone, yes, molto importante per le Hawaii. Yes, it is. Yeah, it took me a while to be able to sing it without feeling the emotion and crying, but it's one of my favorites. So I'd like to dedicate that, of course, to Hawaii, and send my gratitude to you, and my manager Fausto, everyone for allowing me to be here and share with you like this. It's been a real pleasure, a real blessing for me. Our pleasure. Ho detto che ci è voluto un po' di tempo per riuscire a cantare questa canzone senza commuoversi, quanto è importante per lei e per il suo paese, insomma, per le Hawaii. E ha ringraziato naturalmente tutti noi per essere qua, ma siamo noi a ringraziare Chiana per essere venuta, aver superato anche questo impasse del jet lag, che sappiamo essere molto difficile, ma vedo che è in splendida splendida forma adesso, e è stato veramente bellissimo averla qui con questa voce meravigliosa. Comunque, ti devo fare una confessione: Chiana, l'ho chiesto prima in privato, ci ha promesso che ritorna la prossima volta in Italia, ritorna qui in studio. Perfetto, non vediamo l'ora. So, Agostino, just told me that you promised you'll be back next time you come to Italy. Yes, I would love that. Okay. Yes, thanks. Bene, bene. I love you. We'll stay in touch on Facebook. Andiamo, yes. andiamo sul personale qua, Agostino. No, però volevo ringraziare di cuore innanzitutto Fausto Rota di nuovo alla chiusura di trasmissione prima che ci salutiamo, perché se non fosse stato per lui Chiana non sarebbe stato qui questa sera. Di cuore Fausto, grazie veramente per averci dato questa enorme possibilità, insomma. Grazie a voi per lo spazio e per averci aiutato appunto a dare ancora un po' più di visibilità a questa artista che veramente se lo merita di tutto cuore. Noi sai che ci siamo, infatti il fatto di essere media partner di questa grande artista per tutta la tournée italiana ci rende veramente molto fieri e onorati di esserlo, insomma. Volevo ricordare la solita comunicazione di servizio per chi volesse riascoltare la trasmissione, per chi avesse perso un inizio o per qualsiasi altra ragione: sarà ben presto disponibile in podcast come tutti i nostri live. Lo trovate sul nostro sito bluradioveneto.it nel giro di 2-3 giorni, tempo che, certo, i tecnici avranno provveduto a fare il loro lavoro, e potrete riascoltare questa trasmissione magari saltando le nostre chiacchiere, ascoltando solo la voce di Chiana. Chiana, thank you very much for being with us. You took us happiness and rainbows, colors, flowers from away. It's like being on holiday for us, staying with you. Grazie mille. E allora vi auguriamo la buonanotte con questa canzone. Un ultimo grazie, Stefano, lo devo dare a Stefania Schintu della Top One Communication, che come ricordo sta seguendo la tournée di Chiana qui in Italia, ed è l'ufficio diciamo stampa, l'ha detto stampa, insomma, che segue tutti i contatti per quanto riguarda Chiana. Quindi un saluto a Stefania, un abbraccio anche da lei. Parte mia, doveroso. Certo. Yes, thank you Stefania. Ciao Chiana. Ciao. Okay. The next time. Buonanotte a tutti con Chiana Hawaii 78. Just imagine if they were around and so